settimana la rimettiamo. Informazione, posso solo dare qualche informazione per quello che posso. Ah sì, mi chiamo Angela De Benedictis. Posso cercare di dare qualche solo informazione, neanche risposta complessiva alle domande poste da Gerardo Ortalli in relazione al problema degli statuti bolognesi. E a quello che nell'edizione settecentesca è stato recepito degli statuti quattrocenteschi e della loro differenza di quelli quattrocenteschi da quelli trecenteschi. Non c'è nessuno studio su questo, né a quanto mi risulta nessuno ci sta lavorando, probabilmente spaventato dalla mole enorme di questi statuti, tu li hai visti e sono cose spaventose, né d'altra parte c'è una tradizione di studi a Bologna, come tu ben sai, di carattere anche solo specificamente giuridico su queste cose. Io posso dare solo delle impressioni che sono relative appunto un po' al valore di queste dell'edizione settecentesca, che ha un significato nettamente politico, insomma, è un'opera di recupero in sé di tutta la tradizione statutaria, come della capacità autonoma legislativa della città in relazione allo Stato Pontificio e alla Curia. E questo è il motivo fondamentale per cui sono stati ristampati questi statuti quattrocenteschi, ben chiaro, motivo assolutamente chiarito in maniera in forma di trattato quasi, qualche anno dopo l'edizione degli statuti, dove il motivo appunto è ben chiaro e ben specificato. D'altra parte, in quegli anni, che sono gli anni 40 del Settecento, altre edizioni degli statuti vengono riproposte, per esempio l'edizione di Annibale, la glossa, insomma, gli statuti sempre quattrocenteschi di Annibale Monterenzi, che è del 1500, la prima edizione, se non ricordo male, 1576, viene ristampata con una brevissima prefazione nel 1733-34, cioè negli anni in cui vengono ripubblicati questi statuti quattrocenteschi, i quali questa ristampa, questa edizione, insomma, che è per molta parte, insomma, delle rubriche la prima, comprende circa la metà complessivamente delle rubriche statutarie. Non comprende il primo libro, quello che si chiama generalmente libro politico, perché era largamente superato dallo sviluppo delle istituzioni e della situazione complessiva costituzionale, ma va ristampa secondo quel poco che io posso capire, che non sono né medievista né giurista, quindi con limitatissime capacità di comprendere queste cose, però comprende quelle rubriche che rispetto agli statuti del 1389 sono modificate profondamente al loro interno, nel senso che, come dire, i rapporti giuridici che in queste rubriche vengono fissati e previsti fra l'edizione del 1389 e quella del 1454 sono sicuramente modificati, sia per quello che riguarda alcuni istituti che diremmo di diritto privato, sia per quello che riguarda il funzionamento di alcuni uffici, che potremmo dire di nuovo per intenderci di tipo amministrativo, di grandissima rilevanza all'interno della città e del territorio. Gli statuti bolognesi sono statuti che valgono anche per tutte le comunità del territorio del contado, che pure hanno statuti che regolano solo gli aspetti relativi al funzionamento della vita comunitativa, cioè del consiglio. Per tutto il resto vale lo statuto bolognese. Quindi questi, ecco, per quel poco che ho visto io, ma è veramente pochissimo, Non c'è quindi, secondo me, questa totale identificazione che mi sembrava tu presupponessi fra gli statuti del 1389 e quelli del 1454, anche se le rubriche sono le stesse. Le rubriche non, io ho cercato, mi sono divertita per così dire, a fare la verifica dei titoli delle rubriche, sono le stesse. Fra appunto il 1389 e il 1454, ma siccome la situazione in quei 60 anni è profondamente modificata proprio in relazione ai rapporti giuridici anche interpersonali, le rubriche al loro interno sono profondamente modificate. Ecco, solo questa informazione. Che io sappia, se questo può interessare a chi si occupa di edizioni di statuti, vedo in archivio di Stato di Bologna alcuni studenti di storia medievale che stanno trascrivendo le rubriche dello statuto del 1389. Quindi questo può darsi che sia... Una domanda di ordine generale, proprio come riflessione sul nostro seminario e come ricordi anche lontani del seminario, quindi sarò abbastanza generico. Ecco, nei nostri seminari capita un po' questo, cioè che noi come squadra italiana, diciamo in questo caso uso, gli storici italiani parlano per problemi, per tematiche come noi oggi, insomma, gli storici tedeschi invece parlano suddividendosi territorialmente, insomma, quindi c'è qualche volta un incontro, una sfalsatura di piani che rende abbastanza complicato la comparazione nel senso positivo del termine. In questo caso, appunto, oggi però è venuto fuori il problema che mi sembra centrale, cioè, e qui sono più domande che faccio, data la minoranza, che altro. Trento è davvero a cavallo da questo punto di vista tra la zona germanica e quella italiana? Non mi sembra, grosso modo, ecco, ho la leggera impressione di no. Ecco. Cioè, noi adesso qui schematizzo in modo folle, tu Diego dammi una botta in testa, ecco, ma cioè in Germania noi non troviamo una grossa diffusione di statuti cittadini, ma troviamo più che altro delle Eidbücher, che possono essere l'analogia degli statuti, ma non sono gli statuti, insomma, ecco. Cioè implicano un modo di formazione, una genesi e una vita del tutto diversa dalla norma statutaria che invece suppone un altro tipo di rapporto col diritto comune, eccetera, eccetera, se non vado errato. Cioè c'è già di base, direi, un impianto radicalmente diverso, ecco. E poi troviamo quella massa enorme, che sono i volumi, non so se sono 20-30, di Grimm sugli Weistümer, Weisordnungen, quel che si vuole, insomma, ecco. Cioè, questa massa enorme di carte, che sono estremamente diverse, io le ho solo scorse così, dal materiale statutario di tipo nostro. Cioè, a me è bastato sfogliarli per dire, qua siamo in un mondo giuridico del tutto diverso, insomma. Cioè, perché c'è una... questo tipo di accumulo di normativa, possiamo, non so, di regole, patti, dati, un insieme di carte anche estremamente differenti l'una dall'altra, che si accumula da centinaia di villaggi, di università, di città, eccetera, ecco. So che in Germania, insomma, c'è appunto proprio forse per questa maggiore varietà della mobilità, non solo, del trasformarsi in diritto sociale, si vede quasi visibilmente il passaggio da un regime di tipo partizio, in questo caso di tutti, al regime federale, di una legislazione principale dall'altro, che uccide la nascita dal basso del diritto sociale, in scrivo proprio in modo brutale. Che sono tra questi due e appunto in relazione soprattutto all'universale, quando nella qualità delle vostre relazioni, cioè al trasformarsi il valore degli statuti, al valore giuridico, del valore politico, del valore soggetto, oppure semplicemente un svilirsi del punto sia politico, giuridico, degli statuti, in favore della legislazione di diritto positivo dello Stato moderno, non moderno, cancella moderno, ma che insomma. Solo a questo proposito che sento di inserire una domanda che avevo fin dall'inizio, cioè ecco qui il materiale esaminato ovviamente si trattiene sull'ambiente Trento città e sulle aree che stanno a sud di Trento. Ora, vero è che il resto del territorio trentino dal secolo XIII in qua è stato fortemente fagocitato nell'area tirolese, ma non tutto a un tratto, non integralmente, non senza estinguere qualsiasi altra traccia. Gli statuti di Fiemme qui non sono stati considerati per niente, come lo statuto di Termeno, che è territorio trentino ancora per fino al secolo XVIII. Ecco, io mi domanderei se per una considerazione più completa proprio di questi discorsi comparativi, un'attenzione maggiore anche al cosiddetto territorio altoatesino, vero, in quanto possa essere significativo e esemplificativo della situazione trentina, non sia proprio il caso di farlo, perché certamente per l'Alto Adige c'è tutta una fioritura di studi relativi ai Weistümer, no? alle carte di regola e tutto questo materiale, ma non trovo tanto facilmente la linea di demarcazione tra il Trento e il non Trento, se includiamo la Valle di Non, la Valle di Fiemme, insomma la Valle dell'Adige fino a Merano e così via. Per cui non vorrei che un certo errore di prospettiva o una insomma, nostra affezione insomma, ad una determinata prospettiva molto italiana, diciamolo pure, e che ha nel Trentino anche illustri precedenti, ecco, ci facesse velo a una ricerca che perlomeno come domanda, come interrogativo, non è che io abbia in questo momento materiale da rivendicare, ecco. Ma qui, mi scuserete anche la mia profanità in materia, ecco, veramente io mi domando tante volte cos'è statuto e cosa sono carte di regola, come gioca l'uno e come gioca l'altro, cosa è autonomia cittadina e cosa è invece insomma, autonomia, del resto molto scaglionata, della comunità rurale, che in certi casi arriva ad essere capace di darsi uno statuto approvabile solo dal principe vescovo, in altri casi ha dei regolani maggiori, vero, dei feudatari a cui la capacità di approvazione è delegata. Ma ecco, ho l'impressione che nelle valli trentine questa situazione, che è molto simile a quella dell'Alto Adige, sia più diffusa di quello che forse in questo discorso è venuto fuori. Ecco, lo dico solo perché è tutto da indagare questo campo, può essere anche conchiusa in negativo l'indagine, qui non ho niente da rivendicare, ma meriterebbe forse tenerla d'occhio, no? Io non so rispondere alla domanda posta da Prodi sulla esemplarità o meno di Trento e sul suo situarsi in una zona di passaggio. Certo che se comparazione va fatta e può essere fatta con Trento, i riferimenti sono non certamente le grandi città libere dell'impero, ma casomai le città territoriali, quelle cioè che dalla loro nascita sono racchiuse entro un'entità territoriale più ampia. Ma poi la mia domanda era una domanda rivolta ad Ortaldo, cioè che prende spunto dal terzo problema di Ortaldo, ovvero la cesura tardo-medievale, quella che tu hai chiamato fortissima perdita del peso specifico normativo dello Statuto e crescita invece del peso specifico politico dello Statuto. A me pare evidente che questa cesura tardo-medievale è una cesura politica, cioè un avvenimento che sfasato nei tempi, possiamo condensare nell'espressione così, di costruzione dello Stato territoriale o costruzione dello Stato regionale, cioè nella definizione in termini nuovi di rapporti fra città periferiche e città invece dominanti. Mi chiedo, e qua mi faccio poi ad esperienze mie di ricerca, quindi riguardanti soprattutto l'ambito trentino, mi chiedo cioè se questa perdita di peso specifico normativo possa venire in qualche modo divisa, cioè se il tasso di obsolescenza delle norme statutarie sia più precoce per quanto riguarda quello, Quaglione mi scuserà se uso così una categoria un po' così anticipata in questo momento, diciamo così, se il tasso di obsolescenza riguarda più le norme di diritto criminale e penale. Queste sì, molto presto assorbite nelle competenze della legislazione così principesca, gli editti, le ordinanze e così via. Molto meno invece riguardi quello che noi possiamo così adesso definire come diritto civile. Se l'esempio trentino può far testo, e non credo che lo faccia per molte altre situazioni, le riforme statutarie primo cinquecentesche sono essenzialmente riforme che hanno di mira obiettivi di diritto civile, la successione, la trasmissione ereditaria del patrimonio e così via. E d'altra parte una situazione abbastanza generalizzata, io conosco un po' la situazione veneta, una situazione abbastanza generalizzata, dicevo, che vede il centro dominante riconoscere più facilmente individualità e quindi specificità normativa ai centri sudditi per quanto riguarda, per quanto attiene alle norme di diritto civile, molto meno invece per quanto attiene a quelle di diritto criminale o penale. Prego, signora. Io sono Claudia Storti. Mi sembrava, sentendo tutte queste considerazioni, che in fondo effettivamente molti dei problemi che sono stati denunciati sono stati superati dagli studi di quest'anno, entrando nella pratica conoscenza, nell'approfondimento di singole realtà. Tanti nodi che dal punto di vista teorico appaiono insolubili, nella pratica poi trovano le soluzioni, l'esame delle concrete situazioni politiche, degli interessi che in ogni ordinamento vengono pian piano risolti, affrontati attraverso la legislazione statutaria, dimostra appunto che queste soluzioni poco a poco, perlomeno nei casi concreti, si possono trovare. Un problema di fondo negli statuti, secondo me, è ancora quello del fatto che quando parliamo di statuti parliamo di un fenomeno di 7 secoli praticamente. Quindi è vero, esiste una cesura tra gli statuti medievali e quelli dell'età, diciamo, moderna. Esiste un'altra cesura ancora precedentemente tra gli statuti, tra i primissimi statuti e quelli dell'epoca più tipicamente basso medievale. Quindi questo è vero. Lo statuto è anche una fonte estremamente eclettica, potremmo dire camaleontica, spesso non sappiamo neanche di fronte a un testo legislativo se è statuto, se è una riforma, se è una regola, un capitolo. Mi sembra che Savelli l'abbia messo molto bene in evidenza nel lavoro che ha pubblicato in questo testo. Lo stesso problema, abbiamo visto, si può affrontare, non so, nello Stato visconteo, quando la distinzione tra decreti e statuti è sempre al limite. E i giuristi se ne occupano, la studiano, danno delle loro soluzioni che spesso il legislatore si occupa di tenere, e spesso il legislatore ne tiene conto, modifica la struttura della fonte legislativa e quindi qui si comincia a vedere questa coordinazione tra il giurista, tra il diritto comune, diciamo, e la legislazione statutaria. E su questo aspetto, su questo problema proprio del rapporto, di questo nodo fondamentale, del rapporto tra lo statuto e il diritto comune, io credo che anche qui forse si può smitizzare un po' questo distacco che vogliamo sempre, che si è sempre portati a vedere tra la dottrina e la legislazione. La dottrina in fondo non era puramente teoria, perché corrispondeva a interessi concreti, i giuristi erano prima di tutti avvocati, giudici, consulenti e quindi avevano di fronte dei problemi pratici da risolvere problemi che loro stessi in molti casi risolvevano in maniera difforme, no? Spesso i nostri allievi, i nostri studenti si meravigliano di un consilium in cui ci sono soluzioni esattamente contrapposte a quelle che lo stesso giurista ha dato in un altro caso, e lo sappiamo. Quindi quando lo statuto rinvia al diritto comune, in realtà che cosa rinvia? Rinvia a delle soluzioni, almeno nell'idea che io mi sono fatta, rinvia a delle soluzioni, a un apparato di soluzioni che soprattutto a partire dal 300 hanno di mira dei problemi concreti, e quindi rinviare al diritto comune non vuol dire rinviare a qualche cosa di assolutamente astratto, bensì a un apparato dove il giudice, chi si troverà a decidere, troverà delle soluzioni ben precise. Le comunes opiniones si formano su problemi molto specifici, non su teorie del diritto o su problemi del tutto generali. Il fatto poi che del rinvio al diritto comune in molti casi è anche una scelta politica, no? Si è visto in molti casi, non so, per esempio chiarissimo per la Spagna, quando viene adottato il rinvio generale al diritto comune per evitare in certe regioni di essere sottoposti al diritto regio. Quindi mi sembra che questo possa servire, contribuire anche un po' a smitizzare tutta questa serie di problemi che, come del resto è stato fatto in tanti studi che leggiamo con molto piacere. Io sono un po' in imbarazzo perché qui si marcia su tempi che sono molto successivi a quelli ai quali penso io. Devo dire che mi conforta il fatto che si dia grande importanza ai contesti e che, come ha detto bene Gerardo Galli, si voglia è un problema di risalire sempre, no? È un problema di risalire. Ecco, io mi chiedo poi, quando noi arriviamo a quei momenti di fondazione veramente, e dello statuto e della dottrina, perché se io penso per esempio alla ricchezza della tradizione statutaria di Pisa e alla precocità di questa tradizione statutaria, a quel punto io non posso risalire onestamente a nessun modello precedente, però sicuramente ho un contesto così complesso e tale da analizzare che lo statuto chiarisce il contesto e il contesto chiarisce lo statuto in qualche modo. Dunque il mio sforzo da questo punto di vista, e nell'intento che ho già dichiarato tutte volte, ma insomma adesso sto veramente cercando di realizzare, è di creare una griglia tematica e problematica complessa che sia applicabile all'analisi comparata della tradizione urbana statutaria europea, dopo tanti anni che lavoriamo intorno all'unità di circolazione europea e via dicendo nel gruppo interuniversitario, mi induce a scegliere proprio la griglia tematica e problematica più complessa, per essere certa che la traduzione in un'analisi comparata in tutto l'ambito europeo. Ci troviamo pure nei casi della adozione, e quindi senza nessun problema di originalità dell'adozione di statuti di altri che poi vengono applicati anche o hanno quel grosso significato politico che dice Gerardo da un certo momento in poi, oppure vengono applicati anche semplicemente ad altri ambiti nei quali circolano gli stessi modelli costituzionali o come che sia, certamente abbiamo noi a che fare al momento della fondazione di una dottrina che risponda ad un'articolazione sociale e istituzionale molto complessa, di una dottrina e di una normativa anche, siamo certi perlomeno che a noi non sfuggiranno tutte quelle specificazioni che si potrebbero trovare un po' dovunque. Ecco, questo è il problema. Quindi io ritengo che un caso che non è assolutamente isolato, come quello che potrebbe essere così precoce a Pisa, per chi non conoscesse questa tradizione, io ricordo soltanto che abbiamo nel giro di 2 anni, 1162 e 64, 2 brevia consolari. Il secondo breve contiene dei capitoli interi del Costituto, cioè è già dottrina, è dottrina a cui si fa riferimento esplicito, già in quello del 1162 si dice, e sono brevi consolari, cioè giuramenti fatti dai consoli all'inizio del loro mandato, sicut in constitutis legitur, per almeno due rubriche importanti che rimandano a quello che, non so se lo possiamo ancora chiamare così, ma certamente dopo sarà diventato comune. Ecco, tanto per dare l'idea. Poi abbiamo uno statuto del 1286 che ha fatto sempre parlare all'interno della tradizione pisana, ha fatto sempre parlare di una caduta della tradizione intermedia dovuta al fatto che dopo la morte di Castruccio Castracani nel 1315 è andato distrutto l'archivio pubblico. In realtà, se uno guarda dentro lo statuto del 1286, si accorge che c'è stata una vera e propria riforma costituzionale tentata dai due dittatori Nino e Ugolino. Ugolino li conoscete tutti, per almeno se non altro come memoria dantesca, che ha incluso almeno tre statuti, cioè lo statuto è detto del comune del popolo e poi include quelli del capitano del popolo e del podestà. E ovviamente perché nel tentare questa riforma costituzionale hanno raccolto tutta la tradizione statutaria precedente, hanno messo se stessi come capitani e podestà al di sopra, diciamo, di tutte le materie più importanti e hanno raccolto tutto dentro lo statuto del 1286. I due costituti sono del 1100, come prima redazione sono del 1100, è un constitutum usus enorme, un constitutum legis, che sono già scritti il 1162-1164. La edizione che noi abbiamo è un'edizione del Bonaini fatta su un solo testimone, dei costituti soltanto tra Pisa, Livorno e Firenze abbiamo contato 13 testimoni, ma i milanesi sanno molto più di noi a questo riguardo, più due redazioni che sono finite, una a Yale e una a Oxford. Quindi a questo punto diventa indispensabile il problema di edizione di cui parlava ad esempio Gherardo, perché l'edizione significa anche ricostruire la genealogia di questi e guardare appunto a che tempo appartengono. Sembra che non si possa andare oltre la metà del XIII secolo anche per queste redazioni successive. Non sono mai state datate le rubriche che sono state riformate, non sono stati sciolti dal Bonaini mai o quasi mai le sigle dei podestà che hanno fatto fare le correzioni, non sono state individuate le sigle dei correttori che non erano né i giudici inviati dal podestà né quelli del capitano del popolo, ma che erano quelli degli ordines, perché gli ordines avevano delle persone che cioè avevano il diritto di essere tra i correttori degli statuti. Quindi è una materia, voglio dire, talmente complessa che richiede però di essere districata e che soprattutto impone di studiare, ecco, questo io volevo dire, tutta l'attività normativa. Tutta l'attività normativa, niente escluso. Io ho provato a fare una griglia tematica e problematica per creare questa scheda, e non, è una paginetta, non, è una paginetta di intenti per una redazione successiva. Io ho chiamato questo programma che vorrei cominciare a discutere con qualcuno, forse questa non è la sede, l'ho chiamato legislazione e amministrazione. Modelli costituzionali e organizzazione del potere nelle città europee dei secoli XII-XVI. Ecco perché questo è anche l'arco cronologico. Cosa significa tutta l'attività normativa? Tutta l'attività normativa, mettere a confronto senza problemi, costituta, statuta, brevi, ordinamento, provisione, se matricole, incluse queste, per il motivo che noi abbiamo a che fare poi veramente anche con delle matricole, delle arti, con delle sacche di autonomia più o meno grandi che sono riconosciute anche negli statuti, quindi è un complesso molto grande di lavoro che va fatto. E poi un problema profilo esterno per il quale non vanno trascurati, negli accordi bilaterali, i patti di reciprocità, di solidarietà o di pace, o di difesa comune o di assistenza tra stati diversi in guerra, che contengono norme che non sono affatto transitorie, che riguardano ad esempio la disciplina dei territori soggetti, il diritto dei sudditi di un dominio a essere giudici nelle cause miste, giudicati da un tribunale proprio, le procedure di elezione dei giudici nelle cause miste, oppure regolano i rapporti economici, con tutto un lungo elenco di rapporti economici. Ecco, che rapporto hanno con la produzione statutaria generale o con gli organi di governo generali, perché poi abbiamo a che fare con degli organi di governo che si sommano e non si dividono, perché i consoli e il podestà non è lì dei consoli, il capitano non è lì del podestà, come gli anziani non elidono né il capitano né il podestà. Quindi abbiamo anche a che fare con una moltiplicazione degli organi di governo. Quindi per me studiarle nel contesto delle autorità da cui promanano è sicuramente l'unico modo per capire un concatenamento che è serratissimo, che è serratissimo. Non si può immaginare altrimenti di entrare nella comprensione dei contesti. E questo è solo un esempio, io ne ho portati molti di più, non voglio da questo punto di vista stancarvi, però io ritengo che l'edizione degli statuti sia indispensabile quando si ha a che fare con un numero di testimoni molto alto, come abbiamo a che fare noi, per poterci entrare dentro, per poterli datare, per datare le rubriche, entrarci attraverso lo studio particolare di un'istituzione. Io credo che noi siamo riusciti a datare alcuni frammenti che pure sono arrivati separati anche nel corso del 200, che certe rubriche noi sappiamo che sono anteriori a questa famosa redazione del 1287, che poi adesso abbiamo la certezza che non è dell'86 ma dell'87 dei due dittatori, perché abbiamo studiato gli ordines, l'Ordo Maris, l'Ordo Mercatorum e la Universitas Lane, cioè sono i tre grandi ordini con responsabilità politiche e non solo amministrative eccezionali. Allora a questo punto c'è il problema anche degli statuti delle curie. Gli statuti delle curie ci sono stati trasmessi con una datazione del 1305, però noi abbiamo trovato rubriche degli statuti delle curie del 1305 che risalgono almeno alla 1287, perché li abbiamo ritrovati nella redazione dello statuto del 1287. Ma lo statuto del 1287 include lo statuto del podestà e del capitano del popolo. Se torniamo indietro, risaliamo ai primi anni, al quarto decennio del XIII secolo, per alcune cose che appartengono alla curia, per esempio soprattutto alla curia Mercatorum o alla curia Maris. A questo punto quindi sono cose di una, cioè voglio dire, a grande rilievo lo studio delle istituzioni, lo studio delle autorità, diciamo, da cui promanano, per la comprensione della stessa tradizione, di una stessa tradizione statutaria in verticale, e lasciando da parte tutto il problema della diffusione e della trasmissione di questi statuti, perché noi sappiamo benissimo che hanno avuto un'influenza eccezionale in tutta la Toscana, ma non soltanto in questa, nella Francia meridionale per esempio. Quindi abbiamo, questo problema rimane ancora fuori una volta fatto anche tutto questo lavoro di analisi. Quindi ci sono delle chiavi di accesso che vanno privilegiate sicuramente, perché sono indispensabili anche alla edizione degli statuti medesimi, alla comprensione degli statuti medesimi e alla loro edizione e alla loro datazione, che non è l'ultima cosa al mondo che va fatta, cioè forse probabilmente è la più importante. Ecco, non so se sono stata sufficientemente chiara, ma insomma si potrebbe andare avanti molto a lungo con un'analisi di questo tipo. Sicuramente non si può fare un'analisi di una tradizione statutaria, voglio dire, di questo tipo. Pensate che le redazioni trecentesche sono 1302, 1304, 5, adesso dico a me che potrei dimenticare qualcosa, 1311, 1313, 1321, 22, l'ultima è del 1343. Poi c'è una ripresa della tradizione statutaria pisana nel programma Medicio alla fine del 400, in età del Principato c'è il recupero, diciamo, degli statuti repubblicani per la Pisa, per il suo territorio e per anche altre aree sicuramente della Toscana. Quindi va bene, riusciamo a delle indicazioni spaventose. Le edizioni che abbiamo, ecco, noi abbiamo una sola edizione, curata dal Bonaini alla metà del secolo scorso, su un solo testimone, senza quelle datazioni di cui ci diceva, e poi gli fecero mancare i soldi, quindi delle redazioni trecentesche ha dato soltanto degli incipit e poi con rinvio alle rubriche degli statuti precedenti, assolutamente sono illeggibili, non sono assolutamente, non è possibile metterli a confronto, quindi è tutto un lavoro. Tutto un lavoro da fare, senza un programma di informatizzazione è impossibile studiare questa tradizione statutaria, ecco, voglio semplicemente dire. Ma io volevo fare delle brevi osservazioni sia in seguito alla lettura che mi sono sorte sia dalla lettura del volume sia da alcune cose dette oggi. Intanto mi pare di poter dire con molta soddisfazione che questo volume si svolge nell'arco lungo della storia statutaria e quindi ha trovato in me un lettore particolarmente attento, proprio perché sia nell'introduzione di Chittolini sia in alcuni dei contributi specifici relativi all'area italiana, però, e qui mi pare che al di là poi di delle differenze sostanziali che si possono avere negli statuti e nell'interpretazione che se ne danno sia da parte degli storici tedeschi e da parte degli storici italiani, però il punto fermo è che gli storici tedeschi dopo Westfalia non vanno, questo mi pare un punto cruciale, mentre qui per l'area italiana si arriva nell'introduzione di Chittolini a Gabriele Verri e anche a più tarde rivendicazioni del valore degli statuti. Ma dicevo appunto che mi sembra molto importante questo vedere sull'arco lungo le cose, proprio in relazione anche ai problemi diversi che però nascono da chi si trova di fronte a questo tipo di fonte per, diciamo così, il 200-300, poi per il 400-500 e poi invece per l'età successiva. Perché per l'esperienza, insomma, limitatissima, devo dire, che io ho di queste fonti, quando uno studioso del tardo 600 e del 700 si pone di fronte allo statuto, ha prima di tutto un testo a stampa sostanzialmente, e questa è già una diversità notevole. Poi certamente può andare oltre, ma il punto di partenza è un testo a stampa, è un testo di solito un testo a stampa piuttosto curioso e che certamente così determina già delle difficoltà immediate a chi non ha alle spalle una preparazione giuridica e di dottrina del diritto adeguata. Perché in questo testo a stampa per lo più viene riportato un statuto di due, tre secoli prima e quindi il primo problema immediato che sorge quando troviamo appunto riportato nello Statuto di Trento del 1717, lo Statuto Clesiano, con la pena per i bestemmiatori di essere immersi non mi ricordo quante volte nelle acque dell'Adige dalla Torre Verde, ecco, quindi il problema primo che si pone è quello messo bene in luce da Chittolini in introduzione, richiamato poi anche oggi dai vari relatori, della vigenza dello statuto. Cioè, questo è un punto assolutamente cruciale, quindi il primo punto di verificare la vigenza dello statuto. Poi mi pare che un secondo punto importante, e che però non è completamente identificabile con questo primo, è il, diciamo così, l'uso giuridico, cioè la tradizione giuridica che continua avendo come centro lo statuto. Cioè, ecco, a questo punto i commenti, gli ampliamenti, le glosse che vengono fatte a singoli rubriche, a singoli articoli dello statuto. Ecco, qui dico che propriamente con l'altro punto della vigenza dello statuto, perché nel Settecento, secondo me, non si ha mai ben preciso, cioè bisogna verificarlo ogni volta, nell'età muratoriana, diciamo, non si ha mai ben precisi i limiti tra un commento di puro stampo erudito e invece un commento che ha riflessi poi nella dottrina e nella prassi giuridica. Ecco, qui secondo me questo è da verificare. Per questo sono non mi sono trovato completamente in sintonia con la tesi esposta da Chittolini, che sul fatto che la rilevanza degli statuti fino al Settecento, inoltrato fino al tardo Settecento, sia dimostrata anche dalla presenza di autorevoli e convinti sostenitori, dall'idea in certi casi anche che ha una sua applicazione, di istituire delle cattedre di diritto municipale, eccetera. Cioè, la mia impressione è che, secondo me, andrebbe sempre verificata la reale applicazione di quello che è tutto il corpo statutario. Ecco, perché qui mi pare appunto che in molti casi, chiudo il cerchio ritornando a quanto dicevo all'inizio, che in gran parte delle edizioni a stampa degli statuti, ma qui naturalmente mi richiamo a chi è più esperto di me anche e che ha studiato anche nella tradizione statutaria, non si è affermato, diciamo così, al momento vivo della elaborazione statutaria, ma fino alle più tarde manifestazioni settecentesche. Ecco, l'impressione è che sia l'edizione dello statuto possa essere la rivendicazione politica, come mi pare che dicesse Ortalli, o di una autonomia municipale, penso agli statuti della Valle Camonica, ecco, cioè ha una rivendicazione a volte non municipale, ma di autonomia rispetto alla città, rispetto al centro dominante. C'è un'edizione di metà Settecento, gli statuti della Valle Camonica, ma che il punto importante di queste edizioni sia quello che è fuori dallo statuto. Intendo dire, l'edizione dello statuto di Trento del 1717 riporta uno statuto clesiano, ecco, non so perché non l'ho verificato, se credo che non ci sia nessuna modifica rispetto all'edizione del 28, però l'impressione è che la pubblicazione e la parte più importante degli statuti sia le nuove aggiunte, cioè che non sono espressamente legate agli statuti, le nuove regole per l'elezione del magistrato consolare, tutta una serie di decreti dei principi vescovi in materia usuraria, eccetera. Cioè, a questo punto, quello che mi chiedo, ma veramente è una domanda, perché di fronte a questi tipi di letteratura ho sempre avuto questo dubbio, mi chiedo che valore abbia reale la pubblicazione prima dello statuto, e se non sia semplicemente fatta per corroborare, dare forza a quello che viene dopo. Scusate, non posso, esisto fino per un po', poi dopo non ce la faccio più. E appunto si impara molto, io imparo sempre moltissimo, poi oggi moltissimo in particolare. Ci sono queste cose qui, insomma, il lungo periodo, la continuità, stupefacente questo arco cronologico, certo è un fatto che d'altra parte si intreccia con quell'acuta osservazione che faceva Diego Coglione all'inizio, invece del fatto che va perdendo peso l'idea, la consuetudine di considerare la storia d'Italia, per esempio, in termini unitari dal punto di vista giuridico e via dicendo, quindi una contraddizione, che però non nega appunto la durevolezza, come dice adesso Claudio Donati, del fenomeno. Testo e contesto, no? Temi su cui ormai, parole, termini su cui ormai davvero bisognerebbe stendere un velo, invece importantissima questione, testo e contesto che si leggono a vicenda, giustamente, è così. Cosa viene fuori? Lo statuto come oggetto, no? Come oggetto di tecnica abilissima, a cui quindi prestare un'attenzione da tecnici, un gioco sopraffino che non finisce mai di entusiasmare, di prendere giovani che fanno gli storici del diritto. D'altra parte lo statuto semplicemente come indicatore di una o di più, nella continuità, situazioni legate insieme ma difformi, ma lo statuto come indicatore di anche questo. Credo che, insomma, a me pare, viene fuori sempre di più dalla produzione che si sta facendo più recente, l'ipotesi che lo statuto, ma forse in generale tutta la produzione normativa di cui lo statuto è vertice, l'apice, forse più facilmente individuabile, insomma, no? Che lo statuto non sia uno strumento solo per leggere altre cose, non sia neanche un oggetto in sé compiuto da esaminare con attenzione estetica o tecnica, ma sia davvero una strada, insomma, una strada maestra per capire da un altro punto di vista cos'è successo e cos'è successo. Perché c'è comunque un periodo prima del quale gli statuti non ci sono e c'è anche un periodo dopo il quale in fondo gli statuti non ci sono più, non vengono neanche più usati per legittimare, come diceva adesso Donati. Allora c'è in questo periodo lungo, diversissimo nelle sue fasi, eccetera, eccetera, qualche cosa che deve legare. Ora io credo che questo qualche cosa che lega in questo periodo lungo sia, con una parola sola, la politica. Questo credo che sia la questione. Io l'ho chiamata in tanti modi durante i miei peregrinaggi pseudo-storiografici. Insomma, la Costituzione, lo Stato. Io credo proprio che sia la politica. E Prodi adesso ce lo dirà anche col suo libro, forse, che sta per uscire, no? È la politica, secondo me, la grande questione di fronte alla quale noi ci troviamo in questi secoli. Secondo me, improvvisamente, è dal nuovo, sia pure con tutti i riferimenti ovvi alla tradizione antica, ma con grandissimi elementi di novità e di specificità, ed è una politica che probabilmente a un certo punto cessa di essere tale e diventa qualche cos'altro. Con l'età contemporanea. Cos'è questa politica? Certo, io non lo so, cioè, è questo il punto intorno a cui tutti ci arrovelliamo. Sono però sicuro che dentro questa politica il diritto inteso come momento insieme dottrinario e applicativo e ordinativo sia lo strumento, cioè tutto lo strumento proprio, la via, dicevo prima, fondamentale, cruciale. Questo è il discorso di fondo che probabilmente va ripreso. Quindi, secondo me, lo strabismo, insomma, no? Di cui ci diceva all'inizio Quaglioni, forse non era neanche semplicemente uno strabismo, insomma, era che si vedevano le cose da altri punti di vista e in maniera che per noi oggi non è più adeguata. Cioè, qui non si tratta di ricomporre uno strabismo, qui si tratta, come si sta facendo, di fare una cosa nuova. E cioè di erigere questi materiali, che che sono stati, per fortuna, a lungo già esaminati e sviscerati e destrutturati e ristrutturati dai vari punti di vista tecnici, e rigendo invece a materiali privilegiati per fare un discorso che è un discorso sulla politica, all'interno del quale, della quale politica, il linguaggio del diritto diventa il linguaggio probabilmente privilegiato. Ecco, da questo punto di vista, io credo che, per esempio, sia molto importante riprendere, molto suggestivo, quello che ha detto poco fa appunto Claudio Donati, e cioè capire come lo stesso linguaggio giuridico possa e di fatto sia servito a utilizzi, a funzioni, diciamo pure, sempre all'interno della politica, ma diverse. Cioè è molto importante riconoscere che da un certo punto in poi, cioè all'interno fondamentalmente dell'età moderna, questo linguaggio svolge più una funzione, forse più una funzione, tutto da vedere, non lo so, ma insomma, forse più una funzione legittimante, insomma, no? Diciamo così, di tradizione, insomma, di fondazione di tipo tradizionale di un potere costituito, ecco, piuttosto che non una funzione direttamente ordinatoria che invece viene assunta da altre forme di intervento legislativo, normativo, che sono appunto sul modello tedesco, direi le ordnungen, insomma, in generale le ordinanze, oppure forme di codificazione che vanno dalle consuetudini fino alle codificazioni giurisprudenziali illuministiche. Mentre invece però, come mai allora all'inizio di questo processo, cioè all'inizio della politica moderna, il diritto, cioè lo statuto, svolge questa straordinaria funzione dinamica, cioè non di legittimazione, ma di fondazione, di creazione dello status quo? E per esempio qui vorrei richiamare, io adesso non ho mai capito bene questa cosa, a me pare però molto importante il discorso, diciamo così, il nesso che c'è tra produzione statutaria e processi di alfabetizzazione. Quindi, diciamo così, anche forse un inserimento in presa diretta dell'esercizio statutario con la dinamica probabilmente prodigiosa, non ne so nulla dal punto di vista storico-sociale, di soggetti, di ceti che esigono certezza e usano una tecnica straordinariamente nuova, che è quella del saper leggere, per non parlare poi delle proiezioni iconografiche e di tutta questa roba qui che statuti o parte di statuti o contenuti di statuti possono anche avere, quindi questo dottrinario è estremamente importante. Ecco, sono tutte cose molto confuse, non lo so, però mi pare che sia un grandissimo campo in cui c'è spazio per tutti e anche per tante diverse metodologie e approcci, figurarsi se non condivido quello che ha segnalato Gabriella Rossetti. Sono convintissimo anch'io che la mediazione tra testo e contesto debba passare necessariamente attraverso i quadri istituzionali, che non sono solo le autorità, cioè non sono solo i quadri istituzionali, diciamo così, pubblici o politici in senso stretto, ma sono anche quelli sociali, quindi figurarsi. Esatto, quindi certamente. Certo. Non solo, ma io sono anche convinto, per concludere, che non c'è dubbio. E infatti io credo che non a caso ho parlato di una politica europea che nasce e che probabilmente anche in qualche misura finisce o comunque va in posizione di stallo, secondo me, nella fase culminante, gloriosa, ottocentesca della supremazia totalitaria del legislativo, per ritornare, a mio avviso, oggi, alle soglie del terzo millennio, in una situazione che ripresenta caratteri molto, molto evidenti e molto incisivi di ripresa della pluralità degli ordinamenti e quindi di queste cose qui. Noi, lo dico così per chiudere, in contesto sociologico, nella facoltà di sociologia, con prospettive quasi esclusivamente politologiche, organizzeremo un convegno a giugno che è dedicato a questo problema delle scelte pubbliche e dei governi privati, insomma. Cioè, per tutto basato sul sistema della corporazione, sul discorso della corporazione, il che aprirebbe la comparazione anche al di fuori, diciamo così, dello stesso ambito, ma ci porterebbe, europeo continentale, ma ci porterebbe anche. Chiedo scusa. Una domanda brevissima a Chitolini e forse anche alla Claudia. Cioè, volevo qualche chiarimento ulteriore sulla condizione statutaria delle città e dei contadi lombardi ai quali accennavi prima, perché così mi pare che si disegni una specie di quadro nel quale certi territori e certe città padane del 2-300 così manifestano una notevole forza del modello, insomma, della proposta o dell'imposizione statutaria cittadina che dissolve tradizioni, qualora vi siano statutarie rurali, insomma, penso Mantova, Verona, la stessa Padova, ecco, e Cremona forse, ecco, mi piacerebbe avere qualche informazione in più, perché appunto, se per esempio penso al caso che conosco meglio di altri, cioè quello di Verona, vedo che dopo il 1230, dopo la fase appunto di studiata da Simeoni, eccetera, di affermazione dell'autorità cittadina, gli statuti di comunità del contado si contano sulle dita di una mano, forse nemmeno, dopo il 1230, perché c'è un modello di statuto cittadino che è assolutamente dominante, che viene applicato in modo incontroverso, incontrovertibile appunto nell'intero territorio. Ecco, questo era un primo discorso. Poi volevo fare una considerazione riguardo a quello che diceva prima Donati, riguardo alle edizioni statutarie tarde, 6-700, 5-6-700. Secondo me quello che discrimina a proposito della vigenza o della fossilità è quello che correda lo statuto, cioè se ci sono indici, rinvii, analisi, che strumenti di corredo appunto che accompagnano l'edizione e rinviano sì agli ordini e parti o alla decretazione che accompagna lo statuto ristampato, ma anche agli statuti medesimi, è evidente che c'è una, ecco, quello di Bergamo, ma questo, quello di Verona ancora, o altri ancora, ecco, quello mi pare che sia una discriminante banale, però molto significativa. Probabilmente il caso di Trento è diverso da questi che citavo. Scusa, ma cosa sola, il rinvio che io trovo... Con il microfono senza. Relative a quelle questioni trattate, cioè per esempio la questione attuale, le rubriche che vengono commentate come non tanto in emissione ma in osservazione, hanno, cioè viene riportata dalla città, ma viene riportata una serie di osservazioni di tipo legale che si basano appunto sulla, un po' sulla vigenza, insomma, anche se discussa, di queste rubriche sulla base di un'osservazione. In che anni siamo? Siamo, io credo che decisione è il caso della decisione 40 e come noto le decisioni locali vengono stampate a partire dall'ultimo quarto della messa, a partire dall'ultimo quarto del 500 e sarà. Cosa dici di fare qui? Di relazioni parolis. Con il microfono senza problemi, ci si sente con il microfono, no, ma ci si sente meglio col microfono. Dunque, in quale misura lo statuto cittadino è espressione di un diritto urbano? Di più, in quale misura le soluzioni giuridiche riflettono interessi urbani? Questa è una delle domande capitali che si associa all'altra. Quale rapporto c'è fra testo cristallizzato e significato complessivo politico-giuridico che il testo ha nella vita politico-giuridica della comunità? Insomma, lo statuto è o non è una fonte connotata da un punto di vista ideologico e politico? Questa è la domanda attorno alla quale ruotano tutte le altre. Questo lo credo anch'io. Si possono dare delle risposte nette? Io tenderei a dare... più una risposta affermativa che una risposta negativa, naturalmente. Lo statuto rivela una ideologia Ma io credo che esso stesso è l'espressione di un'ideologia nel momento stesso in cui pretende di assurgere al livello di ius proprium. Noi siamo abituati a dire, a ripetere, con i nostri storici più o meno vecchi, che lo statuto, nel momento stesso in cui si definisce ius proprium, presuppone solo per questo sopra di sé un ordinamento superiore al quale si richiama. Però, se noi stiamo attenti, lo statuto col solo fatto di definirsi ius proprium, cioè col solo fatto di carpire questa categoria che è del linguaggio originario, insomma, della tradizione romanistica, non presuppone soltanto sopra di sé un ordinamento superiore, ma pretende di sostituirsi a quell'ordinamento, esattamente come ius proprium, cioè prende il posto di quello che nello schema giustinianeo è il ius civile proprium, perché in quello schema, nello schema gaiano, è il diritto romano che è ius proprium civium romanorum, laddove il diritto comune è in sostanza quel diritto di ragione, il diritto delle genti, il diritto quo quasi omnes utuntur. Il diritto statutario pretende di togliere quel posto, di levare quel posto, di sostituirsi, di relegare appunto quello che era il ius civile proprium in una posizione che è sì sovraordinata, superiore, ma anche progressivamente semplicemente sussidiaria, cioè tendente ad una integrazione di quelle che sono lacune vere o supposte dello statuto. Poi noi sappiamo che c'è certamente la tendenza a postulare la lacuna, c'è l'opzione per la lacuna, come è stata chiamata, e insomma tutto questo che cos'è se non una ideologia politica o il frutto di una dinamica che ha le sue basi nella affermazione di una autonomia e nelle forme che sono tipiche appunto della storia delle nostre città, dell'Italia centro-settentrionale, certo. Io a tutto questo credo. Poi non so se si possa dire che alla personalità giuridica, alla affermazione della personalità giuridica delle città corrisponde anche una personalità morale che si traduce nello statuto. Questo lo diceva Gina Fasoli, non so, è vero, quanto avesse ragione. Io però tutto sommato direi che una forte suggestione per queste affermazioni continuo a sentirla. E per cui anche il problema del rapporto tra la prassi e la dottrina, io non so se debba essere smitizzato, come dice Claudia Storti. Tra l'altro io lo volevo dire anche prima, poi mi è sfuggito, il volume, la squadra italiana insomma è molto ben rappresentata nel volume, e io non volevo dirlo prima, ma insomma i contributi, sì c'è uno squilibrio, cioè, diciamolo, ecco, qui i contributi di Angela, di Varanini, di Savelli, opportunamente tra questi contributi è stato assunto anche un intervento della Storti Storchi che riguardava appunto la dottrina degli statuti. Non so se si tratti di smitizzare, certamente si tratta di storicizzare, di dare concretezza. Io credo che forse nessuno meglio della Storti l'abbia fatto. Lei ha studiato Alberico, cioè ha studiato l'attività di un giurista che è al tempo stesso uno statutario e che è impegnato nella riforma degli statuti della propria città e al tempo stesso è, tra i giuristi del 300, colui che più di tutti ha lavorato alla sistemazione del materiale che circolava allora, insomma le grandi questioni di diritto statutario che hanno inserito lo statuto nelle grandi discussioni della dottrina. Che cosa si tratta di fare? Ma si tratta, quando è possibile, appunto di andare a vedere come questo statuto vive. Qui lo statuto roveretano ci consente di fare qualcosa del genere. Quando accanto alle norme dello statuto criminale il giurista appunta le sue glosse è perché egli è giurista e giudice al tempo stesso e si trova a dover giudicare dei casi concreti, certamente. Si trova per esempio davanti a un'adultera. E la norma di diritto statutario prevede che l'adultera sia punita a pena legale. Quindi con la monacazione forzata, con la verberazione, insomma, con la fustigazione pubblica che qui è prevista però solo per la donna, credo, di Catinto, notoriamente di Catinto, e non per la donna notoriamente onesta. Cosa dice il giurista? Ma appunta una glossa con un richiamo a Paolo di Castro, ma con un richiamo, credo, molto più generale ad un principio canonistico, in cui si dice che lo statuto, presens statutum, vediamo se riesco a trovare il passo, presens statutum non procedit, quando? Nel caso, quando maritus teneret concubinam. Certo, c'è una integrazione, al tempo stesso c'è probabilmente il desiderio di arrivare ad una soluzione più equa rispetto a quello che è il rigore della norma statutaria, ma con un richiamo a un principio che è il diritto comune, cioè il principio canonistico, pari a delitta, mutua compensazione. E appunto il principio previsto in materia di adulterio dal Libera Extra di Gregorio IX. Qui si può citare appunto il luogo anche in capitolo 6 del libro quinto, titolo 16, appunto in materia di adulterio. Questo modo, ecco, di rinviare in continuazione al diritto comune, che è anche un modo di tollere statutum nel momento in cui la norma risulta essere troppo dura o troppo apertamente in contrasto con principi che non possono essere impunemente violati, che non sono solo i principi del diritto naturale, ma i sacri principi che sono contenuti nella legislazione civilistica e canonistica. Questo è tipico. Spesso non ne abbiamo traccia. Quando abbiamo la fortuna di trovare una traccia, allora veramente la grande questione della dottrina, del rapporto tra dottrina e prassi, il modo in cui lo statuto vive, assume immediatamente concretezza. Noi lo abbiamo davanti agli occhi. Ecco che immediatamente abbiamo presente il modo in cui il diritto statutario è il diritto civile comune, il diritto comune, vivono nei loro rapporti, nella pratica quotidiana del diritto. E può essere molto interessante. Per finire, un'ottica unitaria o ottiche necessariamente e utilmente anche divergenti. Io ho usato quella brutta espressione e veramente me ne scuso. Certo, può darsi che in passato quell'ottica strabica potesse essere tranquillamente usata e potesse anche piacere. Del resto gli antichi della fanciulla strabica dicevano sicut Venus spectat, dal grado. Infatti dicevano leggermente divergente, leggermente. È chiaro che la esplosione della letteratura sugli statuti, sulla legislazione statutaria, appartiene ad un'età che era particolarmente sensibile alle esigenze, insomma, giuridico-istituzionali, era un'età di grande fervore legislativo, era l'età che preparava, seguiva l'unità, insomma c'era un'impronta particolare. Certo, oggi non credo che nessuno di noi possa accontentarsi di una visione che non mette a fuoco il problema, e non perché sia illegittimo praticare quella letteratura da un angolo visuale che sia anche lontanissimo dall'ottica storico-giuridica e viceversa, ma perché non è più possibile, io credo, non solo allo storico delle istituzioni o allo storico della politica, guardare allo statuto senza tenere presente quello che nel contempo è l'elaborazione in sede storico-giuridica, e viceversa. Ma perché occorre veramente arrivare ad un orientamento complessivo che può essere dato solo da una riflessione di questo tipo. Questo volevo dire, e non per sacrificare un'ottica, insomma, che è specialistica e che deve continuare ad essere, altrimenti appunto manca la convergenza. Grazie. Brevemente, partendo da, così sarebbe interessante adesso si entra nel vivo, ma insomma per brevità tocco solo alcuni punti. Per esempio, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Schiera, per partire dalle cose più generali. Ecco, con questa limitazione, di cui mi scuso subito, cioè linguaggio politico senz'altro urbano, però ecco, urbano e con la, sono d'accordo con quello che ha detto Prodi, un linguaggio politico urbano differenziato, perché adesso poi io non so di Trento, anch'io la vedo più forse gravitare verso l'Italia che la Germania per questi aspetti, però non ne so niente, però ecco vedo una varietà di situazioni in cui ecco, lo statuto non è sempre uguale a se stesso, insomma, anche se ha questa connotazione di fondo che è frutto di questa, insomma, grande fatto della storia dell'Occidente, che è la città e tutto quello che deriva, pur con tutte le sue varietà. Un altro piccolo punto è quello della appunto lunga durata dello statuto. Sono d'accordo con tutte le riserve che sono state fatte sulla effettiva vigenza, eccetera. A me è capitato di sottolineare queste cose perché, devo dire, nella mia ignoranza generale e specifica, non me l'aspettavo, insomma, ecco. E questo mi ha colpito, il fatto che ancora nel Settecento, insomma, si pensasse a tante cose. Ecco, poi io sono un po' affezionato pregiudizialmente all'idea di questa vigenza abbastanza larga, con la consapevolezza, in ogni caso, che del resto lo diceva, lo ricordava adesso Quaglioni, non è certo mai la vigenza di tutto lo statuto. Ecco, questo risulta anche dalle edizioni a stampa, cioè anche in commenti o presente degli statuti di Pavia, l'editore scrive viget, non viget, oppure corregge, eccetera. Ecco, quindi c'è una parte che sicuramente caduca, obsoleta, eccetera. C'è una parte che è variamente usata, appunto commentata, aggiustata, eccetera, arriva con una certa vitalità, diciamo, al Settecento. Poiché la fondazione di cattedre di diritto municipale entri probabilmente in un contesto molto diverso, questo credo che sia vero, ne ho discusso anche con Mirri e altri così, e tutti hanno delle riserve su questo fatto, probabilmente io... ecco. Era solo in sostanza per dire, ecco, guardate che stranezza, noi pensiamo che lo statuto, ecco, da un certo punto in poi o non ci sia o abbia un valore di evocazione politica, ecco, sicuramente ha ragione Gherardo in questo, c'è, ma direi non come due momenti distinti, cioè io credo che lo statuto, e del resto anche il contributo della Storti Storchi lo faceva vedere, già dal 300 ha questa bivalenza, cioè di documento che ha un valore politico formale e di documento che ha invece un contenuto formale, un contenuto giuridico sostanziale. Ed è una cosa che poi prosegue accentuandosi naturalmente l'aspetto, diciamo, politico, come del resto tu anche in quello quell'articolo sugli statuti di Curzio, la seconda, se non ricordo male, non avevi fatto vedere, mi pare molto bene, insomma ci sono dei casi in cui la stampa o la ripubblicazione di uno statuto risponde quasi esclusivamente a un intento di questo genere. Però mi colpisce anche l'altro aspetto, cioè di una certa vigenza lunga, anche se ovviamente da verificare e poi da datare caso per caso. E rinuncio a rispondere a Grazioli e a Varanini, ne parliamo magari poi più brevemente. Oddio, scusa. Beh, non so cosa rispondere a questo punto, chi, anche perché i problemi sono... sì. Sì, ma anche con lui prima, anche perché per molti di questi problemi io sono totalmente ignorante. Per esempio, sulla collocazione di questa statutaria tridentina più sbilanciata verso l'area italiana, verso l'area austriaca, io credo che Marco Bellabarba e Mauro Grazioli certamente ne sappiano 10 volte almeno, più di me. Quello che, se richiamo la questione, è per aggiungere una minima postilla, vale a dire, queste collocazioni sono, mi pare, a volte molteplici, non sono univoche, dipende dalla... dall'ottica che noi assumiamo nel valutare lo statuto. Per esempio, richiamava Donati l'uso dell'immersione, della corbellatura. Ecco, l'uso della corbellatura mi faceva venire in mente proprio una questione relativa a, diciamo così, aree statutarie più proiettate verso l'Italia o più proiettate verso l'Austria, il caso friulano. Il caso friulano è il caso di un'area in cui in ambito criminale sembra che ci sia una certa omogeneità, cioè i vari statuti friulani sono abbastanza simili, sono quasi tutti statuti di piccoli centri, ma sono abbastanza simili l'uno all'altro. Poi vediamo invece una divaricazione molto forte sul punto di questo tipo di pena, cioè abbiamo un'area all'interno di questa omogeneità che abbiamo già assunto, abbiamo un'area che è l'area della corbellatura, in cui il bestemmiatore viene preso e viene immerso tre volte, normalmente sempre tre volte, in un corso d'acqua, nel lago, nel fossato del castello, nel mare e via dicendo. Abbiamo poi un'altra area che è ben individuabile, altrettanto ben individuabile, diversa e quindi non sovrapponibile, che è quella della pietra d'infamia. Cioè le donne che litigavano in modo indecoroso venivano fatte girare in camicia per il paese con una pietra leggera, leggera perché la pena non era il peso della pietra ma era il girare per il paese, Ecco, allora a seconda dell'ottica che assumiamo, del criterio che prendiamo, ci troviamo di fronte a aree che sono mutevoli. Adesso non vorrei fare l'elogio della fluidità o dell'instabilità, voglio soltanto dire che lo Statuto mi pare un testo talmente complesso da prestarsi o rischiare letture non necessariamente convergenti, anzi che sia opportuno che ci siano queste letture divergenti a seconda dell'ottica. E devo dire anche che poi, a proposito del problema delle aree, non avrei saputo cosa dire alla richiesta di Monsignor Roger, anche perché era una richiesta di persona piena di fiducia, che pensava che tanti problemi potessero essere risolti da chi si occupa di altre cose, e molto in fretta. Qua, per quello che riguarda l'intervento specifico, è un primo lavoro avviato su alcuni centri che sono soltanto 8, 7, 6 centri complessivi su decine di centri, quindi non ha nessuna pretesa di, non può avere, diciamo, non solo nessuna pretesa, ma nessuna logica di completezza o di risposte generali. Ci va bene se fino a questo momento non sono stati commessi errori clamorosi. Ecco, questo è il punto a cui ci troviamo. Mi rifarei un attimo a quello che chiedeva la Gabriella Rossetti. È verissimo che l'analisi del testo statutario può essere fatta soltanto all'interno di tutta l'attività normativa. Però anche qua, tenendo conto, quello che cercavo anche di dire, che esiste anche una specificità dei diversi elementi di questa normativa, ossia il rischio delle volte quello per affrontare tutto di non riuscire più a combinare niente. Io ho l'impressione che una chiave, forse, intanto per cominciare a dare qualche risposta, possa essere una maggiore attenzione a quelle parti che si aggregano agli statuti che in genere vengono trascurate. Per esempio, la parte di glosse che Quaglioni ha spiegato, e che, devo dire, era una cosa affrontabile soltanto da uno storico del diritto, perché io certamente, ma la Parcianello da sola non ci avrebbe, cioè uno storico che non sia uno storico del diritto non ci cava i piedi da questo. Ecco, un altro elemento che mi pare altrettanto importante è quello delle addizioni, che si sommano diciamo, non in generale allo statuto, ma allo specifico testo statutario. Una cosa che può essere interessante allora è andare a vedere che cosa questa gente mette nel codice e che cosa lascia fuori. Per esempio, per restare all'esempio roveretano, mi pare siano aggiunti al testo del 1425 sino al 1502 circa 32 addizioni, che vanno da una singola breve ducale a gruppi di statuti omogenei. Io non so farlo bene, però uno riesce a capire qual è la logica dell'addizione e quindi che cosa si mette dentro e che cosa si lascia fuori e quindi a che cosa serve lo statuto. A me pareva grosso modo che quello che entrava fosse quello che riguardava alcuni diritti fondamentali della comunità relativamente a determinati settori, per esempio il settore dell'amministrazione della giustizia e il settore delle spettanze del rettore, spettanze patrimoniali del rettore. Questo però probabilmente vuol dire che c'è uno spostamento della funzione del testo in quella direzione piuttosto che in altra. Te lo do con beneficio di inventario, Gabriele, ma è solo in qualche modo... Scusa. Sì. Sì, sì, non c'è dubbio. Sì. E un ultimo punto su cui chiudo poi anche, che è quello che a me interessa molto, che è forse era improprio, ma che ho detto, quello della cesura, il termine sbagliato, non lo so, ma comunque c'è un momento in cui qualche cosa cambia. Allora, la precisazione che mi faceva Marco Bellabarba è certamente sacrosanta, cioè la costruzione dello Stato territoriale, la costruzione dello Stato regionale è un momento discriminante in questo settore. La definitiva affermazione dello Stato signorile, anche qua però ho il timore che le cose siano un attimo più complicate per quello che si vede, ti dico, sfogliando codici, perché ci sono casi di forte anticipo e casi di forte ritardo. Allora, il sospetto che ho è che non sia tanto il riferimento immediato a una struttura o una modifica istituzionale. Questo certamente c'è, è il primo dato evidente, però forse non assorbe tutto. Direi che forse, non so, te lo passo così come mi viene in mente, ma senza nessuna pretesa, ma ho l'impressione che il tipo di valutazione possa essere più qualitativo che istituzionale. Allora, per usare le parole che usava Paolo Prodi, ho l'impressione che il momento, uno degli elementi che aiuta a cogliere questo passaggio, possa essere anche il passaggio dalla logica della pattuizione alla logica del diritto calato dall'alto, mi pare che dicesse, che è anche il momento in cui la decretazione acquista un peso tutto nuovo, che è anche il momento, insomma, io ho questa impressione, però sono poi anche temi su cui occorrono competenze storico-giuridiche che io non ho. Un ultimo punto relativamente a quello che chiedevi, Piero, il nesso tra produzione statutaria e alfabetizzazione. Anche questo è un fatto che mi pare per molti versi difficilmente comprensibile. Questi statuti che in fondo sembrano importare e pesare sempre di meno, poi non solo continuano a stamparli, io sono convinto della vigenza lunga. Cioè, io sono veramente convinto che pesino molto fino al Settecento. Il problema è secondo me, di calibrare le ragioni del peso, ma indubbiamente continuano a pesare fortemente per queste comunità. Ma ti dicevo, la cosa strana è che non solo continuino a essere stampati, ma che vengano tradotti. Non solo che vengano tradotti, ma che vengano tradotti in qualche caso documentabile, pensando a un pubblico di acquirenti Per cui lo stampatore riesce anche a farci affari. C'è un caso, secondo me, che è bellissimo, che l'Editio Princeps delle Costituzioni della Patria del Friuli, quindi un testo molto importante, è in volgare. Non è stato stampato in latino e sembra un'edizione quasi privata, perché il traduttore spiega le ragioni delle sue scelte linguistiche. Il traduttore, fra l'altro, è un umanista abbastanza noto, è Pietro Edo, Pietro Capretto, il quale dice: ma io ho tradotto questo perché l'editore ha insistito tanto, uno di questi editori itineranti che andavano, stampavano, cercavano di vendere il più possibile, dice, non sapevo come tradurre, allora come traduco? In friulano, sono le costituzioni per il Friuli che vende in Friuli, in friulano no, perché il friulano si scrive molto male, molta gente non lo capisce, il toscano è molto lontano, e quindi lo traduco in trevigiano. E traduce le costituzioni della Patria del Friuli in trevigiano. Questa mi pare una cosa, quando uno ci inciampa non capisce più niente, perché è 1400, forse 80, 85, che è uno dei primissimi testi. Ecco, poi uno prende atto che non ci ha capito, ha tanti bui, incrocia le dita e va avanti. La fase dell'inizio della stampa è importantissima, non se ne è mai parlato, ma è... ci sono notizie sugli statuti di Verona nel 400 che citano decine, cioè si dice degli statuti vecchi in piena Verona, e si capisce che attorno al 1440-50 degli statuti vigenti viscontei ce n'erano letteralmente decine, che dopo la stampa li ammazza completamente, insomma, lì è una come dire, solidifica una tradizione, la immobilizza, la ingessa, insomma, quella è una svolta decisiva, insomma. Però, questa intanto sarebbe riservata, limitata al bestemmiatore abituato, in via di principio. Nei fatti la pena è lasciata alla religio, alla coscienza del giudice, alla discrezionalità del giudice, salvo il caso in cui il bestemmiatore abbia ricevuto il perdono e la confessione, oppure, caso secondo me importantissimo, le espressioni blasfeme siano una generabis consuetudo patrie, intercalare scusabile perché appartenente al maternus servum, no? alla lingua quotidianamente in uso e parlare. Quindi ecco, questo era il modo in cui lo stesso tutto era della scala, no? Questo. Sì, beh, volevo dire questo, ma mi riallaccio a Diego Quaglione, ad esempio. Sempre come possa influire una certa politica, in questo caso anche la politica, diciamo così, ecclesiastica, nella composizione degli statuti, lo statuto rivano, tra le varie redazioni della statutaria trentina, è l'unico, ad esempio, a non portare quello che qui nello statuto di Rovereto viene messo al punto 3, cioè praticamente le normative che riguardano gli eretici. Mentre per quanto riguarda Trento, Rovereto, Ledro, eccetera, eccetera, abbiamo questa precisa disposizione, cioè il divieto, eccetera, per Riva non esiste. Quindi evidentemente c'è un ruolo diverso della politica, della città e delle dominanti che sono passate prima, che non hanno questo interesse. Anche questo mi pare un punto abbastanza interessante e che in qualche modo cerca anche di portare un altro contributo, di avvicinarsi a quello che diceva prima appunto Schiera, dell'importanza dello statuto anche come politica del diritto, per usare la citazione di Cozzi. E per quanto riguarda il discorso delle due aree, cioè la possibile influenza di quella che può essere la tradizione tedesca rispetto a quella italiana, qui indubbiamente il problema è molto vasto, anche perché abbiamo parlato appunto di un percorso piuttosto lungo, di lunga durata, e quindi separare, diciamo, la statutaria o stratificarla nei vari secoli diventa impegnativo, diventa difficile. Ma anche il problema è anche un altro, quello che noi ci troviamo di fronte a una prima codificazione statutaria regionale solo a partire dal 300, e conosciamo poco di quello invece che accade prima. Eppure un diritto di qualche tipo, un diritto territoriale, da quanto possiamo invece vincere attraverso le altre fonti, esiste. Ed è un diritto che non abbiamo ancora capito bene in effetti come funzioni. Il fatto che io citavo, che ad un certo momento intervenga proprio nell'età federiciana lo stesso imperatore a frenare quello che è uno sviluppo cittadino, nel senso inteso da Chitolini, ma mi pare anche all'interno del volume da Hebel, il quale fa vedere, cioè, puntualmente come, ce l'ho qui la citazione, di la città assumi il suo rilievo soprattutto in Italia come microcosmo in grado di statuire, e in ogni caso all'interno di questa intervengano delle forti pressioni di quelli che sono i ceti locali, che sono in grado anche di darsi questa statuizione. Ma non voglio che certo risolvere la questione, ma mi sembra che questo sia ancora piuttosto dubbio per il caso di Trento. Cioè non vedo né un forte ceto in grado di statuire, né un ruolo cittadino tale da potersi considerare veramente un microcosmo di statuizione. Ecco, qui probabilmente c'è ancora da scavare, e per questo forse non è ancora chiara, almeno per quanto riguarda questa periodizzazione prima, l'effettiva influenza dell'area tedesca sulla così, questione giuridica statutaria della nostra regione. E per quanto riguarda le altre aree, cioè prima si citava l'area di Fiemme, l'area di Termeno, eccetera, è indubbio che il discorso che è stato fatto qui e le ricerche che sono state portate avanti finora abbiano finora privilegiato appunto la parte meridionale del Trentino, perché sono venute in seguito a quello che era un progetto di seguire i passi di Venezia. In ogni caso, mi pare di poter vedere nelle altre zone, più che un fatto statutario, se per statuto ci intendiamo nel senso di un codice che contempli normative di diritto civile e diritto criminale, quasi sempre delle carte di regola, cioè delle normative che contemplano quella che è la comune amministrazione, nel caso di Valle anche qualcosa in più, ma il fatto stesso che la casistica di Valle faccia riferimento e utilizzi lo statuto di Trento, e d'altra parte lo stesso statuto di Trento dice chiaramente che deve valere anche nella periferia, sicuramente fa capire questa poca forza dei centri periferici che vivono di queste tradizioni e appunto fanno riferimento invece per il resto alla statutaria territoriale, prima l'ho definita, ma comunque alla statutaria di Trento, e questo anche in seguito. Un'ultimissima cosa, ancora alla fine del Settecento, proprio per quella che può essere una vitalità da giudicarsi a seconda delle varie misure, quando in effetti ci troviamo di fronte ormai al declinare della statutaria, noi troviamo ancora Trento in particolare che chiede con una certa consistenza che sia mantenuto in vigore quello che è un aspetto abbastanza interessante dello Statuto di Trento, mi pare che sia il capitolo 97 o qualcosa del genere, dicendo appunto che nessun'altra città, nessun altro capitanato può intromettersi in quella che è la questione statutaria pertinente a Trento, e quindi chiede di conservare questa validità, che sicuramente non è la validità trecentesca, ma che comunque qualche significato ce l'ha, indubbiamente ce l'ha senz'altro appunto.